Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Incredibile ma vero, un topo ha rosicchiato, come vedete in questa foto, delle banconote che si trovavano nel cassettone di casa di una signora anziana, facendo svanire gran parte della sua pensione. Dunque non i classici topi d'appartamento, cioè i ladri, ma un vero e proprio ratto che ha fatto indigestione di banconote. Il fatto è successo a Montenero, non lontano da Livorno. Come consuetudine, la donna si era recata alle poste a ritirare la propria pensione. Tornata a casa, ha sistemato i soldi in una vecchia scatola in metallo che anni addietro era servita come contenitore per i biscotti. Mai e poi mai avrebbe potuto immaginare che un topo si sarebbe mangiato i suoi euro. E invece il pasto atipico avrebbe anche potuto completarsi se la signora non avesse ricevuto la visita del nipote e non avesse deciso di allungargli una mancia. Provvidenziale gesto che ha salvato parte dei 560 euro custoditi nel contenitore. La storia comunque ha un lieto fine. Nonostante le banconote sgranocchiate dal topo non siano più spendibili, secondo la Banca d'Italia il denaro sarà comunque rimborsato. Ma non solo, l'appartamento della pensionata verrà disinfestato dai topi a cura di un ente pubblico. Ma non così è... sarà andata la scena. Oh nonna, oh dammi i soldi che devo farmi il panino con la finocchiona. Immagino, non sono capace. Lei poverina è andata lì a mettere le manine nei poveri spicciolini della pensione, 560 euro, e ha trovato il topolino che se l'era mangiata tutta. Ora, adesso, la situazione per me è di difficilissima gestione. Dovrei dire ai topi che non si mangiano le pensioni delle signore anziane, ma poi interverrebbero probabilmente tutti i salvatori di topolini e diranno: no, il topo ha diritto, come essere senziente, di mangiarsi i soldi della vecchietta, anche se lei dopo muore di fame. Ma il senso della trasmissione è tutt'altro. Questo episodio emblematico della pensionata livornese che tiene i soldi in una cassettina di latta dei biscotti, probabilmente dei biscotti di quando era giovane lei, e va dentro con le manine, prende soldino per soldino a dare ai nipoti, a dare al macellaio, a dare all'idraulico, a dare al prete che passa per la questa, via dicendo, e se la gestisce così, mi fa molta tenerezza. È, diciamo, l'anello più debole, ma anche il punto più evidente di una nostra naturale, viscerale, genetica diffidenza verso l'uso del bancomat. Io le vedo di tutti i colori, un ufficio postale proprio vicino a casa mia, e in occasione di elargizione di pensioni vedo la transumanza degli anziani, quando vado lì per qualunque ragione raccomandate che ancora bisogna andare a ritirare le poste, che vanno a prendere la pensione. Ma è tutto una sorta di arzigogolo di fronte allo sportello, si tirano fuori i sacchettini cuciti dentro le mutande, parlo di signore di 90 anni, capito, con la badante vicino che le copre con la borsa, e se le infilano in tutti i pertugi possibili e immaginabili, lì infarcite di banconote come se fossero degli hot dog, escono passin passino per le scalette dell'ufficio postale, dove stanno pronti con i motorini, con le vespine, con le chiavi inglesi, gli saltano addosso e li prendono tutto. Ma voi direte, gli anziani ancora si capisce, non sanno cos'è il bancomat, si confondono e via dicendo. La generazione immediatamente precedente, cioè quelli che vanno dai 50 ai 70, che ancora, a cui faccio parte anch'io, generazione, non sono proprio ancora del tutto andati, sono terrificanti ancora di più. Chi mi accompagna ogni tanto a fare prelievi al bancomat teme molto, dice: no, andiamo in un altro perché qui c'è un signore davanti che sta lì da qualche minuto. Poi tutti nervosi, sì, io mi arrabbio come una bestia, li maltratto, li insulto, perché cominciano, si mettono davanti al bancomat, comincia a tirare fuori tutti i fogliettini con i PIN che non si ricordano e li tirano fuori. Poi quelli ancora più terrificanti hanno dei vecchi cellulari Nokia anni 70 dove hanno scritto PIN bancomat con i numeri grandi che si vede a 6 metri e si cominciano, digitano, sbagliano, poi sbaglio, gli manda fuori la testa. Quando finalmente riescono a ottenere qualche barlume di transazione, cominciano a tirarsi fuori tutti gli estratti conti da quando sono nati al momento del prelievo, poi prendono 10 euro e se ne vanno. Altra generazione, generazione giovanissima, l'ho vista pochi giorni fa in quel di Orvieto, mi pare, ma l'ho visto spesse volte. Sono quelli che contano i soldi quando li prendono al bancomat. Prendono i soldi, poi passano lì 10 minuti a contarli. Ma che li contate a fare? Ammesso e non concesso che ve ne dati meno, che fate? Vi mettete a strillare? Vi inchiodate? Vi incatenate al bancomat? Chiamate dei testimoni? Non c'è niente da fare, ma poi sono quelli. È una macchina, difficile che sbagli. Altra generazione, giovanissima, totalmente idiota, l'ho vista, sono quelli che cancellano le impronte digitali dalla tastiera del bancomat. Questa è una novità, è un nuovo assoluto, ne ho visti già due o tre. Dopo aver digitato il PIN, presi i soldi, contati, con i fidanzatini vicino che stanno attenti, li guardano le spalle, con in mano l'ombrellino, attenti se ci fossero le bande che ci sono di malfattori che si approfittano dei bancomat, passano il portafogli sopra la tastiera dove hanno digitato il PIN, come se volessero cancellare, non so, l'ombra genetica, il loro passaggio e via dicendo, per non parlare poi di quello che accade intorno al bancomat. Beh, oggi la domanda è questa: perché gli italiani hanno così tanta diffidenza del bancomat? Hanno ragione? Hanno torto? Quali sono gli episodi da coda da bancomat che ricordate con maggior disperazione? 800 24 0024. Sono infatti due tecniche distinte, una è quella del cosiddetto skimming, l'altra del cash trapping. Lo skimming non è altro che una vera e propria clonazione della carta con l'ausilio di una piccola telecamera e di un lettore ottico che permette in un tempo successivo di clonare la carta bancomat. Il cash trapping invece è un procedimento meccanico che consiste nell'inserimento all'interno del bancomat di una cosiddetta forcella meccanica. Il cliente, nel momento in cui va a effettuare un prelievo, porta a termine tutte le operazioni, ma il denaro non fuoriesce perché resta bloccato in questa forcella. Ecco dunque che il cliente, preso da un momento di panico, si allontana, contatta la banca. 800 24 0024, panico da bancomat, perché di fronte al bancomat l'italiano medio improvvisamente viene preso da terrore. Avete sentito, ci sono circostanze oggettive, ci sono dei rischi, mettono delle macchinette tarocche che vi portano via PIN, soldi e via dicendo. Vivendo dentro i bancomat, quelli all'interno delle banche, ci sono i filmati, bande specializzate in cui signore e signore entrano, fingono incertezza, vi disturbano, in qualche maniera vi costringono a lasciare incustodito nel momento della fuoriuscita del malloppo il vostro sportello e vi portano via tutto. Quindi non date confidenza agli sconosciuti quando siete dentro i bancomat, quelli diciamo negli appartamentini a piano terra con la vetrinetta, poi quelli sono quelli dove vi fregano meglio. Danilo Masotti, buongiorno. Buongiorno. Allora, Danilo Masotti, antropologo, creatore della categoria umana dell'Umarell, cioè scopritore, perché c'era ma era nascosta, autore di vari saggi, l'ultimo romanzo scritto con Davide Pavlidis, Ciccio Nazzi a Cicche Nizza, Pendragon Edizioni. Vediamo di capire un attimo, Danilo, tu devi farmi un'analisi dettagliata, dove mettono i soldi gli Umarell, gli anziani, ma in generale anche una categoria molto estesa. Ho visto Umarell sulla soglia dei 30 anni, proprio nel rapporto che hanno con il denaro contante e il bancomat. Sì, infatti hai fatto bene a specificare questa cosa, perché essere un Umarell non significa assolutamente essere un anziano, ma è proprio una categoria dello spirito, quindi uno può essere già un Umarell anche a 30 anni e anche meno. E nascondigli degli Umarell, allora questo qua della scatola, della sfora, è un grande classico, scatole di biscotti antiche, scatole di latta. Che non le fa più nessuno, se non a Natale con le confezioni di lusso, che è tutto cartone e tre biscottini. Sì, adesso è abbastanza pericoloso nascondere queste scatole di latta, perché con tutte queste mode del vintage, dei mercatini, così uno magari ruba la scatola di latta per avere la scatola e magari ci trova dentro anche dei soldi. Fuori corso naturalmente, perché ci stanno lì non so da quanto tempo. Perché gli Umarells comunque, e le Snaure, che è il femminile delle Umarell, raggiunto una certa età capiscono comunque di essere molto più vulnerabili, perché i malintenzionati ci sono e come, e i furti nelle case degli anziani sono all'ordine del giorno. E allora loro hanno dei nascondigli, oltre alle scatole, oltre a queste scatole di latta, hanno dei nascondigli astutissimi, tipo mettere delle scatole sotto al letto. Questo è molto, sono facili da trovare, ma ancora più pericoloso sono i nascondigli di queste scatole sopra agli armadi, che queste cose sono cause poi di fratture. Fratture multiple, esposte, chiaro, sì. Perché... tra gli anziani. Che è il primo posto dove vanno i ladri in casa di un anziano, sotto al letto, sopra l'armadio, e posso aggiungerti dentro i pacchi della pasta, dello zucchero, del riso, pensano che lì dentro nessuno ci vada a guardare. Esatto, invece magari mettono veramente tutto il bottino nei portafogli e lì magari non li trovano. Diciamo che l'Umarels usa quel marsupio improprio, lo usa soprattutto in spiaggia, lo usa in vacanza, ha sempre un marsupio e oltre il giubbotto multitasca. Sì, cioè il giubbotto multitasca, non multitask, multitasca che ha tante tasche. No, multitasca, con molte tasche dove ci sono gli spiccioli. Poi, ecco, l'Umarels ha anche un borsellino solo per gli spiccioli, perché a differenza delle altre generazioni che non danno molto valore agli euro, l'Umarell invece capisce che una moneta da 2 euro sono 4.000 lire più o meno, e allora cioè anche le monetine di rame messe insieme hanno sì, un valore tutti insieme. E poi ecco il vero Umarell, comunque, come è stato già analizzato, fugge da qualsiasi innovazione. Ecco, perché ha paura del bancomat? C'è proprio una paura atavica del bancomat. Ha paura del bancomat perché è un'invenzione che gli è arrivata così, tra capo e collo, quindi non sa gestire. Quindi l'Umarell, che è restio a qualsiasi novità. Beh, ormai saranno più di 30 anni, ma più di 30 anni okay, che esiste. Però l'Umarell, cioè il denaro elettronico, che sia in un conto corrente, se così, cioè l'Umarell lo deve vedere, lo deve contare, deve avere il portafoglio gonfio, cioè da mostrare magari agli amici con delle banconote. Quindi l'Umarell preferisce, invece di domiciliare le bollette nel conto corrente, andarle a pagare. Questa aspetta, cosa... un acutissimo ascoltatore mi scrive: come ha fatto il ratto a entrare nella scatola di metallo? Cioè, per me la notizia è una sola. Ah, è entrato nel cassetto dove stava la scatola, che naturalmente era a chiusura pessima, una scatola antica, abbozzata, non è che si chiude ermetica. Pare ci aveva sopra messo, appoggiato semplicemente il coperchio. Ci sono delle motivazioni. Thomas, velocemente, buongiorno. Sì, buongiorno. Beh, io ho 42 anni, dunque non sono vecchissimo, però ho un'allergia cronica a tutte queste nuove tecnologie. E quindi già Umarell geneticamente? Non lo so se geneticamente, però guarda caso a me succedono tutte quante, perché per esempio io ho fatto una Poste Pay ricaricabile perché mia moglie insisteva per acquistare dei Groupon. Molto da Umarell, no. Questa è una scelta umarellica al 100%, Cioè fare il post pay, il conto postale per Groupon. Danilo Masomasotti, un commento veloce, poi continua Thomas. Sì, no, è l'apoteosi l'umarellaggine. L'apoteosi dell'Umarell è proprio questo legame viscerale alle poste. Infatti le poste non a caso hanno creato queste carte per attirare gli Umarell più giovani. E per fare poi le offerte di Groupon. Thomas, cosa compra sua moglie con la sua carta, che ormai l'hanno clonata subito, naturalmente? Esatto. No, mia moglie non ha mai più comprato niente, perché dopo averla fatta e ricaricata un'unica volta 100 euro, dopo 15-20 giorni che è stato fatto il tutto, mia moglie si mette a comprare un Groupon cosa comperava? Quale occasione? Che non è un pranzo, una cena da qualche parte. Che poi ti guardano come tu fossi un mendicante, lo sai, quando vai in un ristorante che hai comprato la cena Groupon, ti guardano, dici tu sei quelli di Groupon, lo scrivo un cartello sopra, gente che spende poco, una cosa terribile. Beh, allora? È rimasta con la voglia perché praticamente scopriamo che c'è stata clonata la carta e da qualche parte ci sono mangiati i 100 euro che c'erano. Perché dentro. Lei evidentemente aveva scritto il PIN della carta, che so, su un foglietto, l'ha messo su Facebook. Era forse la seconda volta che si usava. Lo so, la vita è molto dura, bisogna imparare questi ordigni diabolici della tecnologia moderna, sennò non si vive. Melog, cronache meridiane. Oh, questa notte è la volta decisiva? Speriamo, ma ci vuole un modello. Un modello? Un biglietto da 10.000, vero? E chi ce l'ha? E d'altra parte non posso lavorare più sui ricordi, a memoria. E come si fa? Come si fa? E 10.000, chi ce l'ha? Vuol dire che mi segreto con io. Pazienza. Mi dispiace. Lo so, pure a me, figuratevi. L'ultimo ricordo di famiglia lo porterò da Pizzicone e speriamo che lui, quello strozzino, mi dia un biglietto di 10.000 lire. Mi raccomando, fatevi dare un biglietto da 10.000, bello, grande. Sì, me lo faccio dare a due piazze, a Gardò. Quelli biglietti di 10.000 lire è misura standard, per carità. Questa è la banda degli onesti, probabilmente gli Umarels, ma anche gli Umarels di ultima generazione, quindi i trentenni che... per farsi la cenetta di Groupon a poco prezzo, hanno fatto la cartina postale che si rischia meno, e naturalmente li hanno clonata dopo 30 nanosecondi, perché sono anche fatti stampare delle magliette con il pin sopra per essere più tranquilli che non se lo fossero dimenticati. Ma adesso mi piace far intervenire Armando, che mi dà delle delucidazioni su un ultimo uso di sicurezza nei confronti della perfida tastiera del Bancomat che ho notato testé qualche giorno fa. Armando, buongiorno. Sì, buongiorno. Perché bisogna cancellare le impronte sul Bancomat? Sì, io appunto ho cancellato in quel momento, quindi non vorrei aver perso qualcosa prima, però avevo sentito più volte da degli esperti dare dei consigli riferiti più che altro alle tastiere delle cassette di sicurezza, casseforti tenute in casa. E cosa, no, io parlo Bancomat adesso in questo momento. Sì, ed è anche degli allarmi delle tastiere. E cosa bisogna fare? Nel senso che un malintenzionato, e quindi anche penso nel Bancomat, certo, magari in ore dove non c'è molto traffico, magari di sera, fa un prelievo di impronte digitali, magari fotografato la carta, andando a vedere su che tasti si è battuto, le ultime battute. E come fa a vederlo? E da cosa vede qual è l'ultimo tasto battuto? Ma il DNA. Penso che no, non tanto da quello, ma che probabilmente anche per una questione di umidità, di se è una cosa. Quindi anche lei, diciamo, struscia il portafoglio sopra la tastiera, no, per star sicuro. Quello non lo, del banco, ma no. Io l'ho visto fare un sacco di cassaforte di casa, lo fa. Sulla tastiera dell'antifurto, sì. Sì, ma sul banco, ma io penso ci sia ormai una cultura di colibatteri che uno ce la prende sì da malattia, sì, mettici le mani. Lì altro che la tastiera è toccata su tutti i tasti, non come. Sì, è vero. È chiaro. Ma non vorrei che probabilmente magari sia fatto uno magari ha la mano un po' umida, un po' sudata. Quelli con le mani sudate è uno schifo, veramente. Rimane, non fa tempo ad asciugare, certo, e il malintenzionato riesce a capire. Allora, diciamo che l'Umarel con le mani sudate è ancora più svantaggiato nell'uso sicuro del Bancomat. Diego, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Volevo raccontare la mia esperienza di quando sono stato contattato da un'assicurazione. Mi proponevano di acquistare una polizza anti come dire, contro il furto dei contanti appena prelevati. Ma non so, adesso non voglio ridere una bestiata, ma penso che le banche abbiano, se ti rapinano dentro lo sportello del banco, ma dentro una banca, in qualche maniera la banca dovrebbe tutelarti, sì, assicurativamente. Può essere, oltretutto. Immagina, in ogni caso, mi hanno per una decina di minuti cercato di convincere in tutti i modi. Il costo magari era anche irrisorio, una cosa tipo 50 euro. Comunque la coprivano, se qualcuno la borseggiava un banco, ma esatto, lei era coperto. Ma io ho fatto a un certo punto ho detto, ma scusi un secondo, io ho il conto da una quindicina di anni. Se avessi pagato 50 euro all'anno, questo era, avrei speso una bella cifra, diciamo. 500 euro. Esatto, molto più di quello che prelevo normalmente, per cui non mi conviene. Infatti, hai voglia di subire furti a botte di 100 euro per volta. Sì. Esatto, quindi appena ho fatto questo semplice calcolo mi hanno... Però vede, alle spalle dei diffidenti la banca c'è anche questo business. Nicola, buongiorno. Buongiorno, io volevo raccontare l'esperienza di un mio collega che mi ha raccontato qualche mese fa. E praticamente la nonna, che è fissata con, diciamo, ha paura di ladri, eccetera, insomma, però è anche... È cash maniaca, si chiamano cash maniaci, è una parafilia, esatto. Cash mania si chiama. Esatto, e però è anche, diciamo, un Umarel per eccellenza, perché certo, insomma, è contro tutta la digitalizzazione, eccetera. E quindi? Comunque conserva i soldi in casa, dappertutto, eccetera, e mi ha detto che ha perso 2000 euro in contanti perché sì, aveva questo nascondiglio che è lo sciacquone del water, sì, gli sciacquoni di una volta, insomma, che sono ancora fuori le pareti in alto, aveva attaccati questi soldi all'interno dello sciacquone con dello scotch. Ma aveva una cassetta Geberit, quelle a doppio pulsante o quelle antiche col galleggiante? No, quelle antiche. Quelle antiche, quelle sopra, sospese. Sì, sì. Ah, le attaccate al galleggiante, vecchio nascondiglio, sì. Vecchio e quindi nascondiglio, praticamente, il problema è che non ha funzionato perché... Le evacuate, diciamo. Non lo so, no, io mi ha detto praticamente che si sarebbe staccato questo scotch con cui le aveva attaccate probabilmente a causa dell'umidità e sono andate a finire all'interno dello sciacquone, certo. Hanno trovato una poltiglia ovviamente. Certo. Le ha viste uscire insieme a quella grossa, lo so, succede queste cose. Danilo Masotti, ti ho dato elementi interessanti. Conoscevi il nascondiglio dello sciacquone? Il nascondiglio dello sciacquone no, ma immagino che era così, era per pulire del denaro sporco, ecco, non so altro. Ma no, nascondoli quando vanno, escono due giorni, le persone mettono tutto, mettevano i vecchi galleggianti dello sciacquone, ma che era un altro dei tipici posti che ognuno va a vedere subito, capito? Sì, anche sì, perché... ma infatti, no, comunque, io, cioè, l'Umarell comunque ci tiene ad avere questo denaro contante che può toccare con mano, una cosa un po' da San Tommaso. Perché comunque andare a prendere il denaro di persona, fare la fila, parlare con la cassiera e fare la fila insieme ad altri Umarels, discutere, litigare, così, sono dei momenti di vita ai quali l'Umarel non vuole assolutamente diciamo pensare. Che la banca è un momento sociale, non è un utility per mettere il proprio denaro, per averlo a disposizione in maniera elettronica. Uno non può rinunciare al piacere di fare una lunga fila, parlare, discutere, dire del tempo, parlare col cassiere, raccontargli che medicine prende e via dicendo. Abbiamo capito, ci ha delucidato Danilo Masotti su quelle possesse le ragioni occulte dell'amore degli italiani per il denaro contante. Grazie Alessandro Chiappini, grazie Fabrizio Intonti, a domani.